L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Parleremo molto di acqua in questa puntata dell'Altro Pianeta. Lo faremo a partire da una collaterale di Expo che si svolgerà a Venezia e poi lo faremo con il Consiglio Nazionale dei Chimici. Dicevamo Acque Venezia 2015, collaterale ufficiale dell'Expo di Milano, si tiene a Venezia, anzi per la precisione a Marghera. Un'appendice fisica dell'Expo nella Laguna di Venezia che approfondirà ed esplorerà la relazione tra uomo ed acqua ed ovviamente è chiarissimo il legame che esiste anche con nutrimento ed energia per il pianeta che sono i temi fondanti dell'Expo di Milano. Per parlarne abbiamo ospite Gabriella Chiellino che è presidente di E-Ambiente Group e coordinatrice scientifica di Pianeta Acqua di Venezia. Allora, Acque Venezia si inserisce in un tema appunto legato ai concetti dell'acqua, sia legati proprio al ciclo che all'utilizzo dell'acqua e alle tecnologie, e nasce proprio a Marghera grazie anche a un investimento di un'impresa che ha fatto questo collegamento con l'Expo di Milano con una collaterale che è un padiglione di 10.000 metri quadrati scegliendo come location proprio Marghera. E Marghera diciamo che può rappresentare con la città di Venezia proprio l'hub sull'acqua, perché ricordiamo che comunque la città industriale è nata dall'acqua, proprio il settore della chimica aveva e del vetro la necessità di grandi quantitativi d'acqua, e per cui questa collaterale è posizionata in una location ideale dove c'è una città che è nata proprio dall'acqua. E che è famosa nel mondo per essere proprio in quella posizione. Tant'è che tutte le delegazioni estere che verranno all'Expo di Milano hanno un accordo con noi a Venezia di venire a visitare il padiglione e a partecipare sia agli eventi scientifici sul tema tecnologico e di utilizzo dell'acqua, ma anche su temi ludici, perché ricordiamo che anche qui un terzo del padiglione è legato al tema del food, e quindi ci saranno l'esposizione di cucine internazionali e sarà proprio possibile vedere proprio queste cucine e il tema del food proprio da eventi seguiti da chef, proprio per parlare anche del cibo sia come nutrimento ma come attenzione nella sua produzione, quindi ricollegarsi al tema dell'acqua che è parte integrante di tutta la filiera della produzione del cibo sia a livello nazionale che internazionale. Quindi diceva una parte dedicata e quindi collegata direttamente all'Expo di Milano perché è dedicata al cibo, alla sua produzione, sì. Il resto, le altre aree diciamo di interesse? Allora, c'è una parte importante legata alle tecnologie, al collegamento con la Cina per la via della seta, quindi tutta la via dell'acqua che porta in Cina e dalla quale ci sono arrivati nei tempi, centinaia di anni fa, anche tutti i nostri commercianti, quindi le sete e quant'altro, e oggi si è creata anche una partnership tecnica e tecnologica proprio legata alle depurazioni e al ciclo dell'acqua. Voglio ricordare infatti che il tema dell'acqua oggi nei paesi dell'est-est è un tema fondamentale, perché più che problemi di clima c'è il problema proprio della contaminazione delle falde e quindi dell'acqua, e ci sarà questo connubio per far vedere come un'area piccola, che è quella di Venezia, sono 3.000 ettari, quella da bonificare, può essere però un esempio sia tecnico che amministrativo finanziario per intervenire in aree molto più grandi al mondo che hanno problemi di contaminazione. Tra l'altro aree che appunto sono in forte espansione demografica, che quindi potenzialmente avranno sempre più problemi nella gestione delle acque e delle acque inquinate in generale. Assolutamente, io che ho avuto l'opportunità di andare in Cina per il Ministero anche dell'Ambiente italiano, nelle docenze che facevamo proprio di tra noi e loro e le università cinesi, proprio loro avevano un'attenzione sia al risparmio dell'acqua nei processi, ma anche proprio nella depurazione. Quindi loro iniziano ad avere già delle aree industriali contaminate e quindi devono accelerare il processo di decontaminazione e di attenzione ai processi produttivi. Quindi a Venezia, anzi a Marghera per l'esattezza, l'idea è proprio quella di mostrare anche come si può tecnologicamente intervenire. Ci sono anche quindi c'è una parte scientifica, ecco, oltre a quella di contatto con il pubblico, di dimostrazione, ma anche proprio una serie di convegni e di momenti di approfondimento. Assolutamente, tant'è che abbiamo deciso con il coordinamento di Expo Venice, dove c'è una struttura che proprio gestisce tutto l'esposizione per i 6 mesi, di aprire e fare l'inaugurazione la prima settimana proprio col tema del risparmio idrico in un settore che oggi ha circa in Italia l'80-90% di consumo nel settore agricolo, per cui c'è questa partnership importante sia con Israele, e quindi avremo presente Amir Givati, che è membro dell'Israel Water Authority, e sia l'Olanda, proprio per parlare della miglior tecnologia nel risparmio idrico, con una novità, forse che noi non sappiamo, ma che in Veneto c'è un laboratorio importante sul consumo dell'acqua in agricoltura, gestito oggi dalla regione tramite Veneto Agricoltura, che ha ricevuto premi anche a livello internazionale proprio per l'attenzione nella fase di irrigazione nei consumi, e proprio per fare in modo che l'agricoltura sia per l'acqua e non viceversa, cioè ribaltare anche questa attività che nel mondo è quella che assorbe più acqua, può diventare uno stimolo e un'azione concreta nell'aiutare il risparmio e la bonifica anche tramite le fitodepurazione di tutta l'acqua. Poco fa lei mi ha detto, quando andiamo in Cina, quando loro ci chiedono eccetera eccetera, in Italia abbiamo queste eccellenze, ma anche noi le chiediamo, le utilizziamo, oppure il laboratorio Veneto lavora bene in Veneto ma magari non viene richiesto in altre regioni? Ah no, è un laboratorio che è condiviso con anche il Consorzio di Bonifiche Nazionale, per cui avremo presente anche uno dei massimi appunto esperti, che è Adriano Battilani, nel settore proprio dell'acqua nell'utilizzo agricolo. Anzi, queste pratiche sono distribuite a livello nazionale, per cui avremo anche delle regioni del sud che parteciperanno, che sono anche quelle oggi più sensibili, perché anche loro con problemi su questo tema dell'agricoltura e l'acqua, e poi sono tecnologie che sono state portate all'estero, in Argentina e anche negli Stati Uniti, proprio perché le stiamo testando e le stiamo testando qui nel Veneto, in un'area agricola che è proprio un laboratorio all'aperto e che ogni anno riceve delle visite da altri paesi del mondo e che anche va in giro a portare queste tecnologie. Ricordiamo che noi abbiamo aziende produttive di macchine agricole e di irrigazioni che hanno dei fatturati la cui percentuale più elevata all'estero. Certo, no, ma infatti è proprio questo che mi preoccupa, il fatto che tanti imprenditori, ma anche tanti ricercatori, tanti laboratori che fanno ricerca qua, poi lavorano più con l'estero che con l'Italia, dove magari la percezione del problema non è così diffusa o non a tutti i livelli come dovrebbe essere. Ecco, questa era la mia preoccupazione. Ed è una preoccupazione anche per me, le dico, serve che già che in Italia il settore dell'acqua, del ciclo, è molto gestito insomma dal pubblico, ci sia delle alleanze pubblico-private che permettano di fare questi investimenti, perché sennò oggi noi rimaniamo fermi e le tecnologie magari le vendiamo appunto all'estero. Grazie Gabriella Chiellino, ricordo presidente di E-Ambiente Group, coordinatrice scientifica di Pianeta Acqua, collaterale ufficiale dell'esposizione di Milano. C'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati per questa seconda parte dell'Altro Pianeta, nella quale continueremo a parlare di acqua con il Consiglio Nazionale dei Chimici, nostro ospite Tommaso Munari, che è vicepresidente, con il quale però abbiamo iniziato il nostro ragionamento su un livello più generale, ovvero quello della incapacità tutta italiana di sfruttare al meglio i dati che esistono già nelle nostre banche dati, per l'appunto, che ci consentirebbero di gestire al meglio il nostro territorio. La situazione certamente in Italia è che molte informazioni sono disponibili anche all'interno di svariati uffici pubblici o parapubblici sullo stato reale del paese a livello di vecchio impiego delle aree. Stiamo parlando di aree industriali fondamentalmente. Tutta questa informazione che potrebbe servire in maniera fondamentale e a basso costo, cioè senza nuove indagini di campo, a circostanziare e comprendere bene quali sono le potenziali aree da valutare per i possibili impatti ambientali, soprattutto stiamo parlando di aree antiche o non più recenti, dismesse, sono fondamentalmente ricavabili da dati che possono essere il piano urbanistico piuttosto che le aree catastali, piuttosto che i dati che possono essere recuperati dalla Camera di Commercio. Ricordo che l'Italia è un paese, è vero, per tanto tempo è stato agricolo prevalentemente, ma l'attività industriale non è cominciata nel 1980 o 90. Addirittura ricordo che c'è il Regio Decreto del 1934, il 1265, che è il testo unico sulle leggi sanitarie, che prevedeva che tutte le industrie insalubri, venivano definite, dovevano avere un assenso preventivo, 15 giorni era, però era un assenso preventivo da parte del podestà, quindi oggi il sindaco, per poter esercire in aree limitrofe alle città. E quindi questi documenti in comune dovrebbero esserci quantomeno dopo gli anni 50. E quindi incrociando queste informazioni, incrociando le informazioni della Camera di Commercio sulla natura e i luoghi di produzione delle varie industrie, i PUC, i piani urbanistici, piuttosto che il catasto, uno potrebbe scoprire con estrema facilità che oggi dove c'è un centro commerciale, nel 1950 o 60 c'era una raffineria petrolifera che è stata rasa a zero, come si faceva, e hanno tolto il ferro che sporgeva e tutto il resto è rimasto lì, quindi gli eventuali passività ambientali possono ancora esserci. Quindi certo, e non sono da imputare a quel famoso centro commerciale che è nato dopo su un terreno che era già contaminato in precedenza da altri. Sì, è assolutamente straordinario pensare, straordinario in senso negativo, pensare che un soggetto terzo che arrivi in un secondo tempo, che non ha alcun legame col soggetto che ha creato quel problema, ma quel problema non era illegale all'epoca perché non c'erano le norme, non c'era la sensibilità, poi il soggetto che ha la malaugurata ipotesi di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato potesse essere chiamato in causa, possa essere chiamato in causa a fare anche solo i costi di indagine ambientale, che sono costi comunque elevati, soprattutto perché non sono attività specialistiche, quindi potrebbe, cioè la responsabilità, se è un problema pubblico, non c'erano le norme, è un problema di tutti, ahimè queste attività devono gravare sul pubblico, ma la prima parte di queste attività sono sicuramente attività low cost, basterebbe semplicemente utilizzare i dati che esistono, perché le industrie chimiche dal Novecento si sa da dove esistono, i depositi petroliferi si sa, le raffinerie e così via, ecco. È abbastanza facile avendone voglia. Questi siti contaminati in particolare, adesso mi viene in mente parlando di chimica, quelli di Bussi dovrebbe essere, hanno avuto anche degli impatti pesanti sulle risorse idriche dei vari territori italiani. Quindi c'è anche un ulteriore passaggio sul quale voi puntate il dito, che è quello delle risorse idriche, che a volte sono inquinate per motivi magari per antichi, altre volte sono semplicemente mal gestite, anche in questo caso, quindi anche lì si può intervenire in maniera rigorosa e con strumenti già in parte disponibili, no? Certamente. Le faccio un esempio. Qual era la prassi abituale per smaltire nelle industrie le acque o i rifiuti liquidi che non erano più utilizzabili, quindi scarti? Quindi non parliamo di rifiuti nella nostra normativa, molto prima. La prassi abituale era obbligata, perché veniva richiesto spesso dai comuni, era fare i cosiddetti pozzi perdenti. Erano dei pozzi che andavano nelle acque sotterranee, alla falda, che oggi è la zona più sensibile da tutelare al massimo, perché è da dove prendiamo l'acqua, e da questi pozzi si doveva buttare giù, scaricare all'interno, secondo un principio lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non scaricare nei fiumi da cui bevo o da cui che vedo, ma scaricare sottoterra e ci penserà il terreno. È evidente che tanti siti industriali, quando sono stati dismessi o hanno dismesso i pozzi, tra l'altro il censimento dei pozzi nelle province c'è, non sono stati chiusi in maniera idonea, quindi potrebbero ancora essere veicolo di trasferimento di inquinamento. E l'inquinamento nelle acque ha il problema che rispetto al terreno si sposta molto di più e quindi è decisamente più critico. Anche qui un'attività di valutazione, di verifica, non sarebbe male, ma è chiaro che non può essere un'attività a carico del soggetto che ha comprato l'area dopo 30 anni. Aggiungerei un piccolo problema vero che c'è oggi nelle città: le dismissioni dei vecchi serbatoi interrati a gasolio del riscaldamento. Era stata prevista una norma che doveva obbligare a fare un censimento di questi serbatoi e prevedere valutazioni e verifiche, è stata impugnata da una regione italiana, anzi da una provincia autonoma, così è più difficile capire, per questione di invasione di campo sugli aspetti normativi, di chi doveva normare cosa. Il risultato di questo è che non abbiamo una norma e a oggi i serbatoi che 20 anni fa sono stati convertiti da gasolio a non si sa niente, oppure semplicemente chiusi, possono col tempo deteriorarsi e rilasciare il gasolio da riscaldamento all'interno del suolo e magari nelle acque. Noi non ne sappiamo nulla, sono i condomini, non sono le industrie. Di difficile anche lì approccio, se non con un cambio totale di mentalità. Il problema è che bisognerebbe avere il coraggio, sì, perché la norma non è come il maiale che non si butta via niente, se, soprattutto la cancellare, norma ambientale, che cambiano i punti di vista nel tempo, perché l'evoluzione della sensibilità ambientale è recente. È molto recente e quindi come tale norme desuete, superate o che sono, che affrontavano una piccola parte, ma oggi c'è un quadro più ampio e si affronta in maniera più ampia, cancellale quelle piccole norme. Senta, a proposito di sensibilità ambientale, vedo che voi come Consiglio Nazionale dei Chimici intervenite anche a favore del risparmio di acqua e quindi tutto l'aspetto della irrigazione goccia a goccia in agricoltura, ad esempio, che non vi è propriamente vicino come Consiglio dei Chimici, no? I chimici, ahimè, per tutti e per i chimici si occupano di tante cose. Io specificamente mi occupo di depurazione delle acque e riuso delle acque, quindi sono processi chimici. Quindi anche passa se da lì il collegamento con l'agricoltura, ad esempio. L'agricoltura, è chiaro ed evidente che noi abbiamo un momento nell'anno in cui vi è un maggiore consumo per gli usi agricoli, che normalmente sono le stagioni calde, le stagioni dove hai lo sviluppo della frutta, delle piante, di tutto, delle bacche piuttosto che insalata, piuttosto che altro, ma sono anche i momenti in cui c'è la minima piovosità e quindi le falde vengono intaccate oppure i livelli dei fiumi, noi sappiamo, vengono intaccati. È evidente che l'acqua primaria per l'alimentazione delle persone e per gli usi civili va a incidere in una quota, le dico, modesta rispetto ai consumi generali, rispetto ai consumi per l'agricoltura. È evidente che quest'acqua, se fosse depurata in maniera idonea agli usi agricoli, potrebbe essere, come si fa nei paesi che hanno un po' più problemi di noi, non siamo l'Israele noi, dove il 140% dell'acqua viene consumata, ma potremmo prendere esempio, perché abbiamo anche noi zone a bassa piovosità, oppure piove nel momento sbagliato, ahimè. Per cui il riuso di queste acque per usi non di consumo primario da parte delle persone, che siano l'irrigazione dei campi, che piuttosto che l'irrigazione dei giardini, è evidente che sarebbero una buona cosa, perché me li usava due volte, prima per l'uso primario e poi per un uso secondario. È evidente che ho bisogno di reti idonee per fare questo uso, non posso mandare la stessa acqua a monte attraverso i tubi che uso per dall'acquedotto, perché il rischio di collegamento delle acque, acque pulite di primarie e acque non pulite devono avere delle reti separate. Ho lo stesso problema, potrei pensare, se io sono a monte, purificarle e rimetterle, di fatto è quello che si fa abitualmente con gli impianti di depurazione delle acque. Il problema è che non sempre i consumi delle acque per usi agricoli sono a valle dei consumi civili. Certo. E quindi investimenti su reti probabilmente non sarebbero una cattiva scelta, anche perché abbiamo avuto finanziamenti, come tanti altri paesi europei, per l'agricoltura, per fare queste cose. Alcuni paesi europei sull'irrigazione a goccia, che comunque consuma meno, o sul riuso delle acque, hanno impiegato meglio i fondi, per non essere polemici come sempre, impiegato meglio, con finalità migliori. E poi quando cominciano a essere il sud Italia dal nord Italia la stessa distanza che c'è fra la Spagna o la Francia e il nord Italia, e poi abbiamo magari il petrolio che costa, il gasolio 20 centesimi di più da noi, poi magari i conti fanno sì che a Milano si mangi più facilmente il pomodoro spagnolo piuttosto che il pomodoro olandese, ahimè, piuttosto che il pomodoro di Pachino o il pomodoro siciliano, che è molto buono. Ringraziamo quindi Tommaso Munari, ricordo vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Chimici. Per scriverci l'indirizzo è sempre l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.